GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con GR Europa. Una prima notizia: le grandi compagnie petrolifere, quelle del gas, le minerarie forestali, saranno obbligate a rivelare i dettagli dei loro pagamenti in favore dei governi, questo per ogni progetto di estrazione. Le nuove regole, già informalmente concordate con il Consiglio, sono state approvate questa settimana dal Parlamento europeo. I Verdi europei intanto chiedono norme più severe per la protezione dei dati sensibili. È chiaramente uno degli effetti dello scandalo Prisma, scandalo esploso in casa Obama, quindi negli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di una legislazione europea che renda molto chiaro che una banca, un'assicurazione, una pubblica amministrazione che raccoglie i dati nella nuvola digitale può farlo solo se questa nuvola ricade completamente e pienamente nella giurisdizione europea, così Judith Sargentini, parlamentare europea del gruppo Verde. What we need is European legislation that makes it very clear that if a bank or an insurance company or a local administration stores its data in the cloud, which is happening more and more, you think about paying your bills online, that cloud is all in European jurisdiction, and if it's not, then that they would be breaching the law. And if we do that, if we make such a law, it will lead to a better European cloud, and it will ensure us citizens that third countries like the US, but what happens if Russia or China does the same, cannot get to our data. Si avvicina intanto l'elezione del nuovo European Ombudsman, il mediatore europeo. Il 18 giugno i candidati saranno ascoltati dai membri della Commissione. È una figura molto importante, soprattutto per il 2013, anno europeo del cittadino. Così Erminia Mazzoni, presidente della Commissione Petizioni al Parlamento europeo, nell'intervista raccolta da Maria Luisa Pezzali. Importantissimo celebrare con tutti gli strumenti possibili l'anno europeo del cittadino in un momento molto delicato per l'Unione Europea, nel quale si sta decidendo se lasciarla sopravvivere oppure far andare avanti il processo di integrazione europea creando finalmente l'unione politica. Per creare l'unione politica è necessaria la partecipazione dei cittadini, quindi la consapevolezza. In questo anno la nomina in sostituzione di Diamandouros del mediatore europeo è un fatto molto significativo. Il mediatore europeo è il soggetto che mette in comunicazione, cercando di comporre le liti, il cittadino con le istituzioni europee. Quindi si occupa di controllare tutti i casi di cattiva amministrazione. Il cittadino si rivolge al mediatore europeo per lamentare una risposta non corretta da parte di un funzionario delle istituzioni europee, per lamentare la illegittimità di un comportamento di una istituzione europea. Sono tanti i conflitti significativi che sono stati composti grazie all'opera del mediatore europeo, quindi è importante che a questo momento, diciamo, di rinnovo i cittadini partecipino seguendo quello che accade, perché non sarà indifferente per l'attivazione dei loro diritti come cittadini europei chi andrà a rappresentarli in questo ruolo importante. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare l'appuntamento conclusivo di Giovani per l'Europa, il progetto pensato per informare e coinvolgere i giovani in vista delle elezioni europee del 2014. Promosso dal Parlamento europeo e dall'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, il percorso consiste in una serie di eventi in tutta Italia. L'ultima è in programma lunedì 17 giugno dalle 11 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Siena. Due le sessioni proposte, scoprire il Parlamento europeo e lavorare in Europa, alle quali seguirà poi un momento di dialogo e confronto con alcuni eurodeputati. Per informazioni www.europarl.it. Bene, con questo è tutto per GR Europa. Un saluto, naturalmente l'appuntamento a lunedì prossimo, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.